Ma che notte, che notte con la notte. Se ci penso mi sento la serote. Beh, aspettava con la bionda che fa il pieno razzivar. La Nikita tutta corva da capo si americar. Che nebbia con la notte. Mi cercavano tre o due ziote. Ma per l'appuntamento se c'è zucca non lo far. Quando si sono largamente lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma della nebbia ne spuntano altri sei. Cucola veste già guidone come fratelli volevar. Mentre sotto l'ampiano se la spasse per i car. Che botte con la notte. Mi ricordo di Sima Scelerotte. Ho sinistro da inquietarle, del desert vi dirò. Sono un ufficiale quale per ammazza capa. Gracias.